Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Lev Tolstoi. Il lavorante Emelian e il tamburo vuoto. Viveva Emelian in casa del suo padrone insieme agli altri lavoranti. Una volta Emelian stava passando da un campo per andare al lavoro, quando vede una ranocchia che gli salta davanti e se non ci stava attento, ancora un po' e la schiacciava, sicché la scavalcò con un passo e tutta un tratto sente che qualcuno da dietro lo sta chiamando. Si volta Emelian e vede una fanciulla bellissima che gli dice: «Ma com'è che non ti sposi, Emelian?» «E come faccio, fanciulla bella, a sposarmi? Son tutto quanto qui come mi vedi. Non ho nulla io, e nessuna mi vorrà mai.» E allora la fanciulla gli dice: «Allora sposa me?» E a Emelian la fanciulla piaceva assai. «Io», dice lui, «lo farei con gioia, ma dov'è che vivremo? E che pensieri?» dice la fanciulla, «purché si lavori sodo e non si dorma troppo, avremo sempre di che vestire e di che mangiare.» «E va bene», dice lui, «ci sto, sposiamoci. E dov'è che andremo?» «Andremo in città.» E andò Emelian a stare in città con la fanciulla. La fanciulla lo condusse in una casetta piccina, laddove la città finiva. Si sposarono e cominciarono a viverci. Un bel giorno, lo zar stava passando in carrozza per andare fuori città. Passa davanti al portone di Emelian e la moglie di Emelian era uscita a vedere passare lo zar. La vide lo zar e se ne stupì. «Ma dove sarà nata una donna tanto bella?» pensò. Fece fermare la sua carrozza allo zar e mandò a chiamare la moglie di Emelian e cominciò a interrogarla. «Tu», le dice, «chi sei?» «La moglie del mujik Emelian», dice lei. «E perché?» dice lui. «Tu che sei così bella, sei andata in moglie a un mujik. Tu dovresti essere la moglie d'uno zar.» «Ti ringrazio», dice lei, «per queste parole gentili, ma io vivo bene anche come moglie d'un mujik.» Parlato che ebbe con lei, lo zar ripartì e la moglie di Emelian non gli usciva dalla mente. Per tutta quella notte non dormì. Continuò a pensare a come avrebbe potuto fare per portar via la moglie a Emelian. Non riuscì a pensare nulla che andasse bene. Mandò a chiamare i suoi servitori e comandò a loro di pensarci. E dissero i servitori dello zar al loro zar: «Fa venire qui Emelian», gli dicono. «Prendilo come operaio nel tuo palazzo. Noi lo sfiniremo con il lavoro. La moglie rimarrà vedova e allora potrai prenderla.» Fece proprio così lo zar. Mandò a dire a Emelian che venisse da lui nel suo palazzo di zar come portinaio e che vivesse a palazzo insieme alla moglie. I messi andarono da Emelian e gli dissero tutte queste cose. E allora la moglie gli disse al marito: «Beh», gli dice, «vacci, di giorno lavora e di notte vieni da me.» Emelian ci andò. Arriva a palazzo e il gastaldo dello zar gli chiede: «Com'è che sei venuto da solo senza la moglie?» «E perché avrei dovuto portarla qui?» dice lui. «La sua casa lei ce l'ha già.» Dettero a Emelian tanto di quel lavoro che sarebbe bastato per due. Emelian si mise al lavoro e non ci sperava di riuscire a far tutto, e invece, com'è e come non è, prima di sera aveva già terminato. Torna a casa Emelian. La moglie era seduta al telaio e tesseva in attesa del marito. La moglie accolse il marito, apparecchiò per la cena, gli dette da mangiare e bere e poi cominciò a fargli domande sul lavoro. che dirti, dice lui, va male. Mi danno tanto di quel da fare che non ce la faccio, mi sfiniscono con il lavoro. E tu fa così, dice lei, non pensare al lavoro e non voltarti indietro e non guardare avanti per rivedere se tanto poco quel che hai già fatto e quel che ancora hai da fare. Lavora e basta, tutto matura a suo tempo. Andò a dormire Emilian. Il mattino dopo tornò a palazzo, si mise al lavoro, senza mai voltarsi indietro nemmeno una volta. E com'è, come non è, prima di sera aveva già fatto tutto quanto e tornò a casa per la notte che non era ancora buio. Gliene dettero ancora e ancora di lavoro a Emilian. Emilian finiva sempre tutto per l'ora stabilita e poi andava a casa a dormire. Passò una settimana. Vedono i servitori dello zar che non ci riescono a stroncare il mujik con la fatica e allora cominciarono a dargli dei lavori complicati. Ma nemmeno con quelli riescono a stroncarlo. Quale che fosse il lavoro che gli davano, da carpentiere, da muratore, da mastro di tetto, Emilian riusciva sempre a terminar tutto per l'ora stabilita e andava a dormire dalla moglie. Passò un'altra settimana. Lo zar manda a chiamare i suoi servitori e dice: «Dite un po', ma io vi do da mangiare il pane a ufo? Sono già passate 2 settimane e non vedo un bel nulla da parte vostra. Voi volevate finire Emilian con il lavoro, e io invece vedo dalla finestra che ogni giorno lui se ne va a casa cantando. O forse avete pensato di farvi beffe di me?» I servitori dello zar cominciarono a giustificarsi. «Noi, dicono, ce l'abbiamo messa tutta. Prima abbiamo provato a sfinirlo con la fatica, ma non la spunti con quello lì. Qualsiasi cosa gli si dà da fare, lui in 4 e 4/8 l'ha già finita. E di stanchezza, neanche l'ombra. Come ci riesca, non si sa. Gli viene tutto bene e fa tutto quanto. Qua di sicuro ci deve essere qualche stregoneria, o in lui stesso o nella moglie. E ormai ci è venuto a noia anche a noi. Adesso vogliamo proprio dargli un lavoro, ma un lavoro di quelli che lui non ce la faccia proprio a venirne a capo. E avevamo pensato di ordinargli di costruire una cattedrale in un solo giorno. Mandalo a chiamare tu stesso e comandagli di costruire in un sol giorno una cattedrale davanti al palazzo. E se non riuscirà a costruirla, allora gli faremo tagliare la testa per disobbedienza allo zar. Lo zar mandò anche a chiamare Emilian. «Insomma», gli dice, «eccoti qua il mio ordine. Mi costruirai una nuova cattedrale sulla piazza davanti al palazzo e dovrai aver finito per domani sera. Se la costruirai, ti ricompenserò e se no, ti metterò a morte». Ascoltò Emilian tutto quello che aveva da dirgli lo zar, poi si voltò e andò a casa. Giunse a casa dalla moglie e le dice: «Preparati, moglie! Bisogna scappare, dove che sia, perché sennò qua moriamo per niente». «Ma com'è?» dice lei, «che ti sei tanto spaventato da voler scappare». «E come faccio?» dice lui, «a non spaventarmi. Ma ha ordinato lo zar di costruire una cattedrale in un giorno solo, e se non gliela costruisco, dice che mi farà tagliare la testa. Qua c'è una cosa sola da fare, scappare finché siamo in tempo». «Lo zar ha tanti soldati, dovunque andrai ti prenderanno. Da lui non si scappa e finché c'è forza bisogna obbedire». «Ma come si fa a obbedire quando quel che ti comandano è più grande della tua forza?» Batiushka, non essere triste. Ora cena, mangia tranquillo e poi va a dormire. Domattina svegliati più presto e riuscirai a far tutto». Andò a dormire Emilian. La moglie lo svegliò. «Va», dice, «costruisci la cattedrale. Presto? Eccoti qua i chiodi e il martello. Là di lavoro te ne è rimasto giusto giusto una giornata». Andò in città Emilian. E arrivato che fu, era proprio vero. La nuova cattedrale era già lì, in mezzo alla piazza. Ci mancava soltanto qualche rifinitura. Si mise Emilian a rifinire dove bisognava e prima di sera aveva già belle terminato. si svegliò lo zar, guardò dal suo palazzo e vide che la cattedrale era già in piedi. Ma non è contento lo zar della sua cattedrale nuova. Gli dispiace di non avere un motivo per mettere a morte Emelian e di non potergli prendere la moglie. Di nuovo lo zar manda a chiamare i suoi servitori. Anche questo lavoro è riuscito a fare quella Emelian. E così non c'è motivo per tagliargli la testa. È stato roba da niente per lui, dice, anche questo incarico. Bisogna che ne pensiamo un altro ancora più complicato. Pensateci e trovatelo, che altrimenti metterò a morte voi prima ancora di lui. Pensarono i cortigiani e alla fine trovarono. Vennero dallo zar e gli dissero: bisogna mandare a chiamare Emelian e dirgli: va in un posto che non sai e portane qua una cosa che non sai. Così non potrà più cavarsela. Ovunque andrà, tu dirai che sarà andato nel posto sbagliato. E qualunque cosa ti porterà, tu dirai che ti avrà portato la cosa sbagliata. E allora lo si potrà mettere a morte e potrai prendergli la moglie. Si rallegrò lo zar. Stavolta, dice, avete pensato proprio una cosa intelligente. Mandò lo zar a chiamare Emelian e gli disse: va in un posto che non sai e portamene una cosa che non sai, e se non me la porterai ti taglierò la testa. Arrivò Emelian da sua moglie e gli dice quel che gli aveva detto lo zar. Si mise a pensare la moglie, che gli ha dato proprio un bel consiglio a questo zar. Adesso bisognerà fare una cosa intelligente. Rimase seduta a pensare la moglie e dopo aver pensato e ripensato dice al marito: lontano devi andare, dalla nostra nonnina vecchia vecchia, moglie di un mujik e mamma d'un soldato, e a lei dovrai chiedere per favore che ti aiuti. E quando ti avrà dato una cosa, andrai dritto filato al palazzo e io sarò là. Adesso non riuscirò più a sfuggire alle loro mani, mi prenderanno con la forza, ma non sarà per molto. Se farai tutto quello che la nonnina ti comanderà, mi salverai presto. La moglie preparò il marito per il viaggio, gli dette una piccola bisaccia e gli dette un piccolo fuso. Ecco, disse, questo le darai. Da questo lei saprà che sei mio marito. Andò Emelian, uscì dalla città e vede dei soldati che fanno l'addestramento. Rimase lì a guardarli, Emelian. Fatto l'addestramento, i soldati si dettero a sparare. Andò da loro, Emelian, e domanda: non sapreste, fratelli, come si fa ad andare in un posto che non so e a portarne una cosa che non so? I soldati sentirono e si stupirono. E chi, gli dicono, ti ha mandato a cercare questa cosa? Lo zar, dice lui. Anche noi altri, dicono loro, da che siamo soldati, andiamo sempre in qualche posto che non sappiamo e non ci arriviamo mai, e cerchiamo qualcosa che non sappiamo e non riusciamo a trovarla, sicché non possiamo aiutarti, noi altri. Rimase seduto con i soldati per un po', Emelian, e poi proseguì per la sua strada. Cammina, cammina, arriva una foresta. Nella foresta c'è un'isba piccina piccina. In questa isba piccina piccina c'è una vecchietta vecchia assai, moglie d'un mujik e mamma d'un soldato, e fila il cotone e intanto piange e le dita le bagna non in bocca con la saliva ma negli occhi con le lacrime. La vecchietta vide Emelian e subito gli gridò contro: che sei venuto a fare? E disse che sua moglie l'aveva mandato lì. Subito la vecchietta si raddolcì e cominciò a fargli domande. E cominciò Emilian a raccontarle tutta quanta la sua vita, e come aveva preso in moglie quella fanciulla, e come era andato ad abitare in città, e come l'avevano preso a lavorare nei cortili dello zar, e come aveva servito a palazzo, e come aveva costruito una cattedrale, e come adesso lo zar gli avesse ordinato di andare in un posto che non sapeva e di portargliene una cosa che non sapeva. Lo ascoltò fino alla fine la vecchietta e smise di piangere. Cominciò a borbottare tra sé sé. Sì, si vede proprio che è venuto il tempo. E va bene, dice, siediti qua, figliolo, mangia. Mangiò Emilian e poi la vecchietta cominciò a dirgli, eccoti qua un gomitolo, fallo rotolare davanti a te e seguilo ovunque rotolerà. Lontano dovrai andare fino alla riva del mare. Arriverai al mare e vedrai una città grande. Entra nella città e chiedi che ti diano da dormire nella casa che è nell'angolo più lontano. E là dentro cerca quel che ti occorre. E come farò a riconoscerlo, nonnina? Ah, quando vedrai una cosa a cui si obbedisce meglio che a un padre e a una madre, quella sarà la cosa che cerchi. Pigliala e portala dallo zar. Quando l'avrai portata allo zar, lui ti dirà che gli avrai portato la cosa sbagliata e allora tu dirai, se non è la cosa giusta, allora bisogna spaccarla e darai dei gran colpi su quella cosa e poi portala al fiume, spaccala a metà e gettala nell'acqua. Allora riavrai la moglie e asciugherai le mie lacrime. Disse addio alla nonnina e se ne andò Emilian e fece rotolare il gomitolo, e rotola, rotola, il gomitolo lo condusse fino al mare. E proprio sul mare c'è una città grande, e sull'angolo estremo di questa città c'è una casa alta. Chiese Emilian che gli dessero da dormire in quella casa, lo lasciarono entrare, si mise a dormire. Al mattino si svegliò presto, e sente che il padre si è alzato e sveglia il figlio e le manda a spaccare la legna. E il figlio non obbedisce. «È ancora presto», dice. «Lo farò poi». E sente che dalla stufa la madre dice «Va, figliolo, che al padre tuo gli fa male le ossa. Dovrà mica andar lui. Va, che ora?» Il figlio fece soltanto uno schiocco con le labbra e si rimise a dormire. S'era appena addormentato che tutto a un tratto qualcosa cominciò a rimbombare e a strepitare nella strada. Balzò dal letto il figlio, si vestì e corse in strada. Balzò dal letto anche Emilian, corse anche lui a vedere cosa rimbombasse e a cosa il figlio avesse obbedito meglio che non al padre e alla madre sua. Corse fuori Emilian e vede che in strada sta passando un uomo che porta sulla pancia una cosa rotonda e ci batte sopra con dei bastoni. Era quella cosa a rimbombare e a quella cosa aveva appunto obbedito il figlio. Subito si fece più vicino Emilian e cominciò a guardare quella cosa e vede che è tonda come un secchio e da tutti e due i lati ha una pelle tirata. Cominciò a domandarmi così, ma tamburo, gli dicono, e com'è? È vuoto? È vuoto, sì, gli dicono. Si stupì Emilian e cominciò a chiedere che gli dessero quella cosa. Non gliela dettero. Smise di chiederla Emilian e si mise a seguire il tamburino. Per tutto il giorno camminò e quando il tamburino si mise a dormire, Emilian gli prese il suo tamburo e scappò via con quello. Corse, corse e arrivò a casa sua, nella sua città. Pensava che avrebbe trovato la moglie, ma lei non c'era già più. Il giorno prima l'avevano portata dallo zar. Andò Emilian a palazzo e comandò che lo si annunciasse così. È arrivato quello che era andato in un posto che non si sapeva e ha portato una cosa che non si sa. Così annunciarono allo zar. Venne lo zar a vederlo. «Dov'è?» gli dice. «Che sei stato?» Lui glielo disse. Era il posto sbagliato, dice lui. E cosa ne hai portato? Voleva mostrargli la cosa, Emilian, ma la Zodara non vuole vederla. È una cosa sbagliata, dice. Se è sbagliata, dice lui, allora bisogna spaccarla e che se la prenda il diavolo. Uscì Emilian dal palazzo con il tamburo e ci dette dei gran colpi. Non appena ve li ebbe dati, si riunì intorno a Emilian tutto quanto l'esercito dello zar e rendono onore a Emilian e attendono un suo ordine. Allora lo zar cominciò a gridare al proprio esercito che non seguisse Emilian. Ma lo zar non lo ascoltano. Tutti van dietro a Emilian. Vide questo lo zar e ordinò a Emilian di portarsi via la moglie sua e cominciò a pregarlo che gli desse il tamburo. «Non posso», dice Emilian. «A me, dice, hanno ordinato di spaccarlo e di gettare i pezzi nel fiume». Si avvicinò Emilian col suo tamburo al fiume e tutti i soldati gli vennero intorno. Bucò Emilian il tamburo, lo spaccò in tante schegge, lo buttò nel fiume e scapparono via i soldati in tutte le direzioni. Ed Emilian prese sua moglie e la condusse a casa sua. E da allora lo zar smise di dargli fastidio e lui cominciò a vivere bel bello, il bene ad accumulare e il male a scialacquare. Arturo Cirillo ha letto Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it